Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay, capitolo 19. Sesso gay occasionale. Questo capitolo è dedicato al sesso gay occasionale. La sessualità gay, nella sua espressione più alta, cioè la sessualità gay affettiva, è una forma di comunicazione interpersonale particolarmente intensa, che si realizza quando due ragazzi, richiamo ragazzi qualsiasi sia la loro età, arrivano a condividere anche la propria intimità sessuale. Questa espressione, condividere la propria intimità sessuale, indica che la sessualità gay a livello di coppia è pienamente realizzata solo quando è espressione e perfezionamento di una prossimità affettiva profonda. Si tratta infatti di una condivisione voluta e anzi desiderata di una dimensione delicatissima della vita come la sessualità. Perché due ragazzi possano superare le inibizioni e i ritualismi appresi dall'esterno e possano mettere da parte la visione individualistica della sessualità per passare ad una visione della sessualità come condivisione su base affettiva profonda, è necessario che tra quei due ragazzi esista un vero rapporto affettivo e che la fiducia reciproca sia senza riserve. Quando due ragazzi si vogliono bene, al punto che la felicità dell'uno costituisce la felicità anche dell'altro, allora il contatto sessuale tra quei due ragazzi ha veramente un senso profondo di condivisione. La soddisfazione sessuale di due ragazzi che si vogliono bene non deriva da particolari pratiche sessuali, ma dal percepire che la comunicazione reciproca è totale e che l'esperienza dell'altro, anche in termini fisici, non incontra più alcun ostacolo. E che significa che la disponibilità reciproca è totale e senza riserve. In altre parole, la soddisfazione sessuale esalta il senso di comunicazione e di reciprocità. La sessualità gay a livello alto, cioè la sessualità gay affettiva, ha una dimensione essenzialmente altruistica ed è assolutamente incompatibile con atteggiamenti egoistici e predatori o con la strumentalizzazione dell'altro, che rappresenta la più radicale negazione della dimensione affettiva. Partendo da questa concezione della sessualità affettiva, si comprende come le pratiche sessuali occasionali siano una realtà che non può di per sé risultare pienamente appagante, proprio perché il sesso occasionale è privo di quella dimensione affettiva profonda che caratterizza e rende autenticamente soddisfacenti le più alte espressioni della sessualità gay. Nessun ragazzo gay preferirebbe spontaneamente il sesso occasionale ad un rapporto serio in cui la sessualità abbia una profonda base affettiva. Perché allora il sesso occasionale è ancora una realtà comune e la ricerca del sesso occasionale assorbe tanto tempo e tante energie mentali dei ragazzi gay? La risposta la forniscono proprio i ragazzi gay che cercano sesso occasionale. Questi ragazzi dicono: io posso fare sesso solo così. Vorrei tanto vivere una sessualità, espressione di un amore profondo e reciproco, ma quella è soltanto un'utopia che non si realizzerà mai, mentre il sesso occasionale è una realtà comune e in fondo anche facile da realizzare. In questa risposta c'è del vero, nel senso che la ricerca del sesso occasionale è facile, ma c'è anche del falso, nel senso che la ricerca di una sessualità che sia espressione di una vita affettiva profonda non è affatto un'utopia, anche se non è certo una cosa facile da realizzare. In altri termini, la strada verso il sesso occasionale si presenta senza ostacoli e anzi sembra la soluzione ovvia a tutti i problemi affettivi, mentre la possibilità di andare verso una sessualità profondamente affettiva appare solo come un'eventualità remotissima ai limiti dell'utopia. Per questa ragione tanti rinunciano a cercare una sessualità affettiva e si accontentano del sesso occasionale, vivendo il sesso occasionale come un surrogato dell'attività affettiva, cercando cioè spesso inconsciamente nel sesso occasionale quel contenuto affettivo di cui il sesso occasionale è intrinsecamente carente. Proprio per questa ragione, il sesso occasionale è quasi sempre accompagnato da senso di frustrazione. Le persone che fanno sesso occasionale, di fatto, rinunciano ad avere una vita affettiva soddisfacente perché la ritengono irrealizzabile e investono tutte le loro energie in una sessualità tecnica. Per loro il sesso non è un contatto tra persone, ma una cosa da fare, nella quale si cerca però anche una corrispondenza affettiva almeno parziale. Spesso la ricerca del sesso occasionale è teoricamente accettata come una realtà eventuale rarissima anche da parte di ragazzi che almeno in teoria cercano una sessualità di tipo affettivo. Classica è l'espressione "se dovesse capitarmi non direi di no". A parte i rischi per la salute, che nell'esercizio di pratiche sessuali con sconosciuti sono decisamente più alti che nella sessualità di una coppia che vive una stretta monogamia, il sesso occasionale tende a diventare una vera e propria forma di dipendenza, in qualche modo simile all'uso degli stupefacenti. Il meccanismo di illusione e successiva delusione si ripete con una continuità esasperante e la frustrazione finisce per essere l'esito scontato di ogni incontro. Il senso di frustrazione non deriva dalla inadeguatezza di questa o quella pratica sessuale o dal fatto che il partner del giorno non sia quello giusto, ma da rendersi conto che nessuna pratica sessuale può supplire alla mancanza di un effettivo e maturo rapporto interpersonale. Vorrei sottolineare che in quello che dico non c'è nessun giudizio morale sulle persone, anche non più giovani, che ricercano e praticano il sesso gay occasionale. Si tratta spesso di vittime dei pregiudizi sociali e del moralismo, che si vedono private della possibilità di vivere una vera vita affettiva. Evidentemente per queste persone la sensazione di privazione affettiva è così profonda e la prospettiva di creare un contatto affettivo autentico è così remota, che ritengono di ricercare attraverso il sesso gay occasionale qualcosa che almeno somigli a una vita affettiva. Ci tengo a precisare che ho avuto modo di conoscere tanti ragazzi e anche tanti non più ragazzi gay che ricorrono al sesso occasionale, e parlando con loro ho potuto notare che sono ragazzi che hanno voglia di parlare, di confrontarsi, di creare contatti umani veri. Si tratta di una parte non trascurabile dei ragazzi e dei non più ragazzi gay, e ancora più numerosi sono i gay che nella loro vita attraversano almeno una volta un periodo dominato dalla ricerca del sesso gay occasionale in sostituzione di una vita affettiva che di fatto non si realizza. Di fronte a queste cose, che esistono e che condizionano la vita di molte persone, perché la ricerca del sesso occasionale sostitutivo finisce spesso per essere il principale centro di interesse di un ragazzo gay, le risposte di carattere moralistico costituiscono la reazione più comune e nello stesso tempo più deleteria. Il fenomeno della ricerca del sesso occasionale è l'effetto di una privazione affettiva alla quale moltissimi ragazzi gay sono sottoposti già in ambito familiare. Il moralismo, che presuppone un pregiudizio radicato, è profondamente immorale, perché accentua l'isolamento e favorisce il diffondersi dei modelli di comportamento dedotti dalla pornografia, che restano di fatto gli unici modelli proposti ai ragazzi gay in rapporto alla loro sessualità. Parlando in chat con i ragazzi gay, vedo praticamente ogni giorno i danni che il moralismo produce. E mi rendo conto di quanto i modelli derivati dalla pornografia finiscano per radicarsi nella coscienza di molti ragazzi che faticano non poco a staccarsi da una rappresentazione tipicamente pornografica della sessualità gay. Mi capita spesso di dare a tanti ragazzi risposte molto lontane da quelle che si aspettano in materia di sesso occasionale, cercando di far vedere loro le possibilità reali di costruirsi una vera vita affettiva. Circa un terzo di quei ragazzi reagiscono in modo nervoso e poi non si fanno più sentire, ma con gli altri 2/3 si apre un confronto vero ed è incredibile quanta disponibilità e quanta serietà si possa trovare in questi ragazzi, che non sono assolutamente abituati all'idea di essere rispettati e di poter parlare di questioni attinenti alla sessualità in modo serio. Per questi ragazzi, staccarsi dalla ricerca frenetica del sesso occasionale non è facile comunque, richiede uno sforzo di volontà notevole, che diventa però sopportabilissimo quando si presenta la prospettiva concreta di un rapporto affettivo autentico e gratificante. Devo sottolineare che quando parlo di rapporto affettivo autentico e gratificante, non intendo riferirmi necessariamente nemmeno in via principale ad un rapporto di coppia, perché le esigenze affettive frustrate dei ragazzi che cercano sesso occasionale vanno bene al di là del rapporto di coppia. La riscoperta dell'affettività autentica e gratificante delle amicizie serie ha di per sé un significato profondo in questi casi, proprio perché è la riscoperta di un'autentica dimensione affettiva. La costruzione di rapporti di amicizia vera, in genere, ha il potere di rianimare anche i ragazzi più frustrati e di rendere quindi molto più semplice anche l'uscita dalla dipendenza dal sesso occasionale. I ragazzi gay hanno bisogno soprattutto di affetto e di speranza. Per quanto possa sembrare paradossale, il sesso occasionale è una delle risposte più comuni alla mancanza di affetto e di speranza. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.